Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Non ci sono dubbi, i robot entreranno sempre di più a far parte della nostra vita, ci assisteranno nei luoghi di lavoro e anche in casa, dove insomma per ora si limitano a essere presenti come lavapavimenti, ma presto faranno un po' di tutto. Le avvisaglie di tutto questo cambiamento sono evidenti e ormai ci sono anche i primi prototipi di robot domestici, come quello presentato al convegno sulle tecnologie al servizio dell'ambiente in cui si vive, Ambient Assistant Living, organizzato da la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Parliamo del primo robot per assistenza diciamo così personale, messo a punto da Corobotics, uno spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, che ha tra i suoi fondatori Filippo Cavallo, ricercatore e appunto cofondatore di Corobotics, che è in linea con noi. Buonasera Cavallo. Buonasera. Intanto ce lo descriva. Ma un robot in generale è da assistenza, ecco. Al di là del luogo è una piattaforma mobile che si muove su ruote, che è in grado di muoversi in maniera completamente autonoma all'interno di una mappa che è in grado di apprendere, è dotato di una serie di interfacce che consentono adesso di interagire con la persona, quindi interfacce vocali, interfacce touch screen, interfacce luminose. È un robot che ha integrato con sé un maniglione per supportare la persona nel camminare, è dotato di una testa per avere una interazione. È il classico schermo, no? La solita schermo al posto della faccia, che così può anche fare le sue espressioni, no? Può comunicare attraverso questa, che è una comunicazione non verbale ma altrettanto importante. Esatto. Ed è anche costituito da un braccio manipolatore in una sua versione che gli consente di prendere oggetti e di manipolare anche oggetti. Ecco, in realtà voi state poi lavorando su due robot che si assomigliano, hanno molti punti in comune, però pensati per due situazioni leggermente diverse. Intanto c'è un robot pensato per assistere le persone in ambienti più pubblici. Che funzioni ha questo? Ma quella di trasportare oggetti, okay, di dare supporto alla logistica, e questo è stato testato in lungo e in largo presso una casa di cura qui in Toscana. Poi quindi abbiamo, per esempio, può portare in giro la corrispondenza in una casa di cura, in un condominio o in un ufficio. Esatto, perfetto. Poi un robot che attraverso i suoi sensori è in grado di osservare, di monitorare quello che accade e quindi di fare monitoraggio e quindi migliorare la sicurezza della persona e intervenire nel momento in cui ci sono azioni critiche e chiamare supporto. Ecco, cioè assistenza. Che tipo di azioni, che tipo di situazioni riconosce questo robot? Ma può riconoscere per esempio persone che sono cadute o persone che si trovano in difficoltà, ecco, per esempio riconosce la postura, se sono sedute, se sono coricate per terra. Se uno è sdraiato sul pavimento, il robot si preoccupa, diciamo così, chiama aiuto. Esatto, è anche in grado di fare un controllo di sicurezza nel senso più classico, per esempio, non so, in un condominio, controllare chi entra e chi esce, piuttosto che in un ufficio. Assolutamente, appunto. Sì, è in grado anche di rilevare il volto della persona, quindi fare un riconoscimento facciale, ecco, quindi può avere tutta una serie di funzioni anche di sorveglianza e di controllo in ambienti pubblici come il condominio o anche negozi, aeroporti e quant'altro. Inoltre è in grado questo robot di essere utilizzato attraverso una teleoperazione, certo. Può essere anche controllato a distanza da un operatore che supervisiona gli ambienti. Ma questo ormai ce lo aspettiamo, diciamo che forse è la parte meno difficile, esatto, anche dal vostro punto di vista lavorativo. Senta, a che punto siete di questo progetto? Quali sono i vostri obiettivi? Avete sperimentazioni in corso? So già che la risposta è sì. Sì, allora noi siamo in continuo sviluppo dei robot, li abbiamo già sperimentati su più di 150 persone anziane, abbiamo coinvolto più di 200 stakeholders che potrebbero, ecco, creare dei servizi attorno a questi robot. Stiamo continuando con la sperimentazione e col migliorare le performance tecniche del robot e anche migliorarne l'accettabilità e l'usabilità. Quello che stiamo adesso cercando, ci siamo dati anche un piano di lavoro di un paio d'anni, un obiettivo, è di riuscire a trovare il modo di industrializzare questi robot. Per cui l'idea sostanzialmente è quella di riuscire a trovare degli investitori che sono in grado di supportarci in questa industrializzazione, ingegnerizzazione, forse non è il termine giusto in questo caso, ma esatto, sì, ingegnerizzazione sostanzialmente, e anche, ecco, di trovare dei fondi per fare degli studi di fattibilità di questi robot ancora più approfonditi. Insomma, se c'è qualcuno che vuole investire in questa direzione, potrebbe per esempio farvi un colpo di telefono, questo direi che è assolutamente, fantastico. È assolutamente chiaro. Avete in mente, per capirsi, anche un costo come obiettivo di questi robot? Possiamo dirlo? Sì, sì, certo. Dunque, prevediamo che con un minimo di funzionalità e di sensori installati il costo possa andare dagli 8.000 euro fino ai 20-30.000 euro a seconda del livello di degli optional, diciamo così. Esatto, Però prevediamo anche, diciamo, dei modelli di marketing basati sul leasing o sull'affitto. Quindi ecco, c'è da lavorare sulla definizione del modello di business adeguato, sì, anche perché in realtà siamo di fronte appunto ad una prima assoluta. Esatto. Va bene, grazie allora Filippo Cavallo, in bocca al lupo per la vostra iniziativa. Grazie, grazie mille a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata a voi tutti, vi lascio a Effetto Notte. Audi è innovazione. Scopri i suoi protagonisti su Audi Innovative Thinking.it.